Poi ognuno che vuole prende la parola. La verità di questo brano però è fonte di discussione, è pieno di considerazioni il racconto della trasfigurazione, anche se è una forma letteraria. Marco, l'Evangelista, che è molto terra a terra con i suoi fedeli, per esempio fa quel riferimento alle vesti che neppure una lavandaia, cioè linguaggio della gente, linguaggio comune. La realtà inconfutabile di questo brano però è la glorificazione che attende il Cristo. Faccio notare che questo evento, comunque lo si interpreti, viene dopo che Gesù ha annunciato che sta andando al Calvario per essere messo a morte. Che cosa ci sollecita a riflettere questo evento? Dico la mia, poi gli altri dicono la loro. A vedere le cose oltre l'immagine, oltre la figura, oltre il racconto. E insegna a scorgere la presenza di Dio senza che né le cose, né l'uomo, né la vita quotidiana siano sminuiti di valore, o di fatica, o di soddisfazione, ma scorgere in tutto il senso di verità che sta dentro alle cose, all'uomo, al suo vivere, alla sua vita quotidiana. Io per intanto mi fermo qui. La parola a chi? Riportando il fatto della trasfigurazione nella nostra quotidianità, quello che colgo è che dobbiamo concederci la possibilità di vedere le persone sotto un altro aspetto. Quando qualcuno opera una scelta che il nostro metro di valutazione non riesce a focalizzare, questo ci procura un senso di delusione e di imbarazzo. E mi riferisco allo spavento che hanno preso i discepoli di fronte alla trasfigurazione di Gesù. Però dobbiamo renderci conto che lo stato d'animo che proviamo è frutto di un nostro limite. Siamo noi che non riusciamo ad accettare la novità. È il nostro modo di vedere che pone dei limiti alla libertà di espressione altrui. E questo è segno anche di una forma di egoismo. Io volevo notare che... Voce alta. Volevo notare attraverso due o tre parole, bene, alcuni aspetti di questo brano. Mi ha colpito innanzitutto il presupposto. Cioè, prima della manifestazione, Cristo li conduce in disparte, loro soli. Significa che certe esperienze, certi presupposto per incontrare anche Cristo e il suo messaggio, è l'isolarsi e il portarsi fuori da certe strutture, l'ambiente, la moltitudine, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto che secondo me ho potuto rilevare da questo brano. A me sembra che l'immagine che mi colpisce, diciamo così, immediatamente, è l'idea di andare verso l'alto. Ma oggi sappiamo che in alto ci sono i nuvoli, i cieli, le stelle. L'alto credo che in realtà sia inteso all'interno di ciascuno di noi, il profondo e ciò che c'è di divino all'interno di ciascuno di noi come immagine di Dio. Che quindi sia da capire cosa significa per ciascuno questa apparizione, questa trasfigurazione che può essere altro. Io faccio un parallelo tra il brano della Genesi relativo ad Abramo e la trasfigurazione, cioè anche sul monte del sacrificio richiesto da Dio compare ad un certo punto la luce, Dio si trasfigura perché torna ad essere padre e aver pietà di quel padre che gli offre il figlio. Lo ringrazia della fiducia avuta e gli dice no. Anzi, ti restituisco tuo figlio e tutta una generazione che non finirà più. Mentre prima per 3 giorni è stato al buio. Così come Gesù con i suoi discepoli gli viene al buio. Fa le cose che loro non capiscono. Sono perché affascinati da qualcosa di misterioso, ma non si presenta con chiarezza la luce del sole, e quando la chiarezza appare è tale che li abbaglia e li spaventa, e appare dentro una nube. Di fronte a queste rappresentazioni dell'Antico e del Nuovo Testamento mi viene in mente quello che fanno questi giovani che magari vivono all'università di Londra e che poi vivono queste oscure esperienze di assassinio, uccidono ancora qualcuno per fare la gloria di Dio, per fare l'onore di Dio. Questa confusione interna che dovrebbe essere superata nella storia dell'umanità, non si offrono più sacrifici umani, ma sacrifici di animali. E a un certo punto non si offrono neanche più sacrifici di animali e neanche più il sacrificio della Quaresima, perché quello che conta è il cuore compunto, è l'amore, tutto formato. Tutto questo itinerario in molti non è ancora avvenuto e quindi vivono ancora la confusione, quella confusione che anche nella Bibbia si trova risolta, ma soltanto in un momento così, insomma, di fuoco, di illuminazione improvvisa, che però finisce e dice tacete, non dite quello che avete visto. Quindi ci si arriva attraverso un dono particolare, attraverso un itinerario complesso, che non tutti compiono purtroppo. Quindi l'educazione, fatevi dei discepoli, è un itinerario che continua rispetto all'esperienza di Abramo e a quella di Gesù. Invece sono rimasta colpita dall'ultima frase. Dopo questa esperienza fantastica, i discepoli non scendono e Gesù ordina loro di non parlarne con nessuno. Loro obbediscono, però si domandano che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Quindi non avevano capito, non hanno capito probabilmente l'esperienza vissuta. E quindi che cos'è? È la fede, è la fiducia che loro ripongono in Gesù. E mi sono ritrovata appunto con la prima frase che poi stamattina abbiamo letto: è tutto e solo questione di fede. La vita, l'uomo, la morte. Fede, fiducia, fiducia e l'amore. L'amore di Dio, l'amore nostro, del prossimo, l'amore che dovrebbe regnare. Aggiungo 2 o 3 flash. Uno che dice: è bello per noi stare qui, altrove possiamo camminare e non stare stare, solo passare. C'è un cuore di luce in ogni creatura e una bellezza comunque, anche se nascosta. È sepolta molte volte questa bellezza. E può emergere proprio dalle cose. Come nota Marco, le sue vesti furono bianche come nessuno. Le vesti di Gesù sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo, della materia, della storia, della fatica e della soddisfazione di chi opera in questo senso. Anche la storia, come diceva Corradini, ha frutti di luce. Poi c'è un'altra cosa che mi colpisce. Facciamo tre tende, che non finisca questa festa, che non venga intercettato questo nostro star bene. L'essere di Pietro in quel momento nell'errore e desiderare, volere che questa emozione spirituale duri per sempre. L'uomo invece cammina tra due monti, il Tabor e il Calvario. Però mi interessa. Ma se hai visto la luce del Tabor in qualche maniera, puoi affrontare anche il buio del Calvario. Io, uomo, avanzo nelle mie storie, nelle mie esperienze, nei miei eventi, nelle prove, proprio con la forza e per la forza di un istante di luce. Conforto e profezia. Conforto e profezia. Io voglio custodire la memoria di una luce, sia pur lontana, ricordo di un amore ricevuto e donato. E voglio conservare, custodire questo cuore nella luce. E se non stufo, un'ultima considerazione. E venne dalla nube una voce. È il linguaggio fondamentale in tutta la Bibbia. Ascoltate Lui. Dio non ha volto, ha però una voce. Gesù, appunto, l'unica visione che ci è concessa è l'ascolto della sua parola. In essa è nascosto il segno della luce. Oltre ai miei sentimenti, alla bontà delle persone, alla bellezza delle cose, alla sofferenza di vivere dentro con gli altri uomini che tendono a spegnere la luce, ma che non si spegne mai, anche nell'ultimo. Abbiamo tirato in lungo un po', no? Gloria a Dio nell'alto del cielo.